in primo piano. Buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli. Buon giovedì, sono sempre un po' indietro con il tempo, avanti. Buon giovedì 3 agosto da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore. Come avete sentito a pagina 3 trovate questa lunga intervista di Giorgio Santilli e Gianni Trovati al ministro per l'economia Padoan. L'avete sentito appunto nel GR, si parla di tutto, si parla degli argomenti più strettamente di cronaca, cioè la vicenda, tutte le vicende economiche e non che ci vedono in questo momento impegnati in un confronto con la Francia, Telecom, la vicenda Telecom Vivendi e naturalmente quella di Fincantieri, ma il titolo scelto riflette questa risposta che ha dato Padoan al fatto che comunque le risorse pubbliche sono sempre limitate e lo sono ancora di più quando il PIL non cresce e quindi diminuiscono anche le entrate fiscali. E là il virgolettato è priorità a giovani e lavoro, e poi il taglio al famoso cuneo fiscale, che è invece una misura diretta alle imprese per cercare di comunque migliorarne. Il cuneo fiscale è una delle stranezze dell'Italia, se vogliamo, grande come quello che abbiamo noi, poi esiste in molti paesi e naturalmente è un macigno sulle imprese perché aumenta la pressione fiscale. Interessante, visto che abbiamo parlato di Telecom, subito sotto questa ipotesi Golden Power. Che cos'è il Golden Power? Letteralmente potere dorato. È quei poteri speciali riservati al governo nei settori considerati strategici. È una possibilità prevista da un decreto varato nel 2012 e il ministro Calenda ha lasciato intendere che potrebbero essere usati nella vicenda appunto Telecom. Le telecomunicazioni sono sicuramente un settore strategico e quindi naturalmente si sente anche un po' profumo di ritorsione, se vogliamo, nel senso che Macron ha esercitato la Golden Power alla francese sulla vicenda Fincantieri, sapete, facendo marcia indietro sull'accordo che prevedeva che a Fincantieri andasse il 51% dei cantieri francesi, e invece adesso si è parlato anche ieri, tutto rimandata poi la decisione finale al 27 settembre, si è parlato invece di una percentuale a Fincantieri del 50%, quindi non la maggioranza. Col Sole 24 Ore vi segnalo la quarta puntata, la trovate a pagina 16 dell'agenda del professionista, oggi in particolare tutto quello che riguarda il lavoro, quindi lavoro occasionale senza forma scritta ma con tetto ai compensi e i nuovi voucher. Ci fermiamo però subito un attimo per la prima pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon giovedì, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno già mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp. Un ascoltatore mi dice è il solito comizio, addio, e noi invece speriamo che resti e speriamo davvero di non suonare come un comizio. Eravamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, come vi ho detto pagina 3 trovate l'intervista al ministro Padoan, al ministro dell'economia. Il Corriere della Sera, come praticamente tutti gli altri giornali, apre sulla questione delle ONG e in particolare di questa ONG tedesca alla quale è stata sequestrata la nave Jugendrettet, che letteralmente vuol dire la gioventù salva, perché è accusata di non salvare soltanto i migranti, ma di poi restituire, questa è l'accusa più articolata, in realtà comunque ci sono le foto che documentano questo, di restituire poi le imbarcazioni da cui vengono tratti in salvo i migranti ai trafficanti di uomini. Vi segnalo comunque la vicenda di Roma, che continua a essere seguita un po' da tutti i giornali, magari non con l'enfasi di ieri, perché sappiamo che nella capitale ci sono ancora tantissimi problemi aperti e c'è anche e speriamo che qui gli ascoltatori del Movimento 5 Stelle non interpretino male le mie parole, ma c'è comunque, credo che sia innegabile, uno scontro all'interno della giunta e anche all'interno del movimento, degli esponenti del Movimento 5 Stelle in giunta, perché troppi i ancora gli intoppi con l'ultima vicenda, quella delle dimissioni dell'assessore al bilancio con delega al patrimonio. La fotonotizia del Corriere della Sera è però dedicata a Filippo, il marito della Filippo d'Edimburgo, il marito della regina d'Inghilterra, Elisabetta II. A 96 anni, la foto del Corriere è molto bella perché è preso da fotografato di spalla mentre si toglie il cappello, è la tipica bombetta inglese. Nella sua vita da principe consorte, meglio, che è iniziata nel 1952, ha preso parte a 22.219 impegni pubblici da solo. Poi ci sono tutti quelli ai quali ha preso parte accanto appunto alla consorte. E ieri è stato detto ufficialmente che il principe Filippo va in pensione. È stata ieri la sua ultima uscita pubblica. La Repubblica, come vi dicevo, in linea con la maggior parte dei giornali, titola sulla vicenda delle ONG. La ONG lavorava con gli scafisti, il virgolettato della dichiarazione del Viminale, del Ministero degli Interni, che appunto ha messo fuori legge sostanzialmente questa ONG e ha immediatamente sequestrato la nave. Vi leggo però la maca di Michele Serra, perché è sul femminicidio. Ne abbiamo parlato ieri perché negli ultimi tre giorni due donne giovani sono state uccise dai rispettivi compagni o ex compagni, e scrive Michele Serra: a proposito dei maschi che uccidono la donna amata, tra parentesi punto interrogativo, perché non sanno accettare la frustrazione della perdita, come scritto ieri da Michela Marzano, viene da domandarsi, per esteso, quali perdite, quali sconfitte, quali limitazioni della felicità, quali decurtazioni delle aspettative è disposto ad accettare, non solamente sul piano sessuale o affettivo, ognuno di questi bambocci assassini. E non solamente loro. In una società tendenzialmente no limits, trovarsi di fronte al limite, per giunta al proprio limite, rende pazzi. In questo senso la fragilità dei giovani maschi, la loro enorme difficoltà a padroneggiare la sconfitta e il rifiuto e da lì ripartire più calibrati e più saggi, sembra il paradigma della fragilità di una società intera. Negli Stati Uniti l'ossessione ridicola del winner e del loser, il vincente e il perdente, come sole parti in commedia, non sembra aver generato benessere mentale. Il consumo di psicofarmaci laggiù è semplicemente abnorme. Per correre ai ripari bisognerebbe organizzare, oltre a quelli benemeriti di danza, ikebana, cucina e affini, dei corsi di sconfitta. Forse già esistono. Le femmine, comunque, come docenti, paiono meglio attrezzate. I millenni le hanno rese più resilienti, più avvezze alla sconfitta e dunque, vedi il paradosso, alla lunga più vincenti dei maschi. Non so se sia davvero così, però sicuramente è interessante capire appunto da cosa, come si può arrivare a una tale violenza e poi all'assassinio, partendo da, punto interrogativo naturalmente, quello che viene definito amore. Il Messaggero ha una fotonotizia dedicata alla vicenda dell'ONG e della nave Jugendrettet che è stata sequestrata, però il titolo principale è «L'Italia sfida la Francia su TIM», e la questione è quella che vedevamo anche sul Sole 24 Ore, di questa possibilità di attivare il Golden Power. La Gazzetta dello Sport, come potete immaginare, titola sulla vicenda Neymar. Il titolo è Bomba N. Neymar del Paris Saint-Germain, un affare record si scatena al domino, e come avete sentito anche nei GR, ma anche dal nostro Dario Ricci, anche fin da ieri, a questo punto è interessante anche vedere questa mossa, perché sapete che il PSG è controllato dal Qatar. Il Qatar è un paese medio orientale isolato dalla maggior parte degli altri paesi per iniziativa dell'Arabia Saudita. È interessante vedere come il Qatar voglia muoversi, comunque continui a muoversi su uno scacchiere economico fuori dal Medio Oriente. La Stampa, migranti, blitz dell'Italia, quindi anche qui fermata ONG tedesca. La fotonotizia però è dedicata a Ruanda, perché domani in Ruanda si vota, e la fotonotizia molto bella vede delle donne che manifestano in piazza a supporto del presidente Kagame, e che è parte del fronte patriottico, e quindi un'idea appunto che anche in Africa sempre di più le donne abbiano un ruolo anche in politica. Il Fatto Quotidiano a sua volta titola sulla ONG, sequestrata quella che viene definita l'ONG taxi tedesca, non diamo foto degli scafisti, un riferimento anche alla vicenda delle banche, con gli ultimi sviluppi dello salvataggio delle quattro banche, alla fine del 2015, lo ricorderete, prima che entrasse in vigore il 1 gennaio del 2016 la regola europea che vietava questo tipo di salvataggi da parte del governo. E poi un riferimento a quello che è stato dichiarato ieri dal leader della Libia, che dice non accettiamo questa missione italiana, missione di fatto militare italiana nelle nostre acque. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX. Sapete che il Secolo XIX è diventato è entrato a far parte della stessa società che possiede la stampa, quindi il titolo principale è molto simile, quindi dedicato all'ONG, ma vi segnalo, perché poi il Secolo XIX, essendo un quotidiano di Genova, spesso ha delle notizie anche in prima pagina su Genova, sulla Liguria, c'è questo caso secondo me interessante del fatto che il prezzo del gasolio spinga i mega yacht a lasciare Nizza, il porto francese, e scegliere l'Italia, e quindi tutti in fila a Genova. E poi una fotonotizia che parla dei roghi sia nella riviera di Levante che in quella di Ponente, quindi quel tratto Levante, quella che va da Genova, diciamo, in giù verso la Toscana, e l'altra da Genova verso Savona, verso la Francia. E ci sono la Liguria quest'anno, come purtroppo tanti altri anni, è tuttora messa in ginocchio dagli incendi. Il Libero si riferisce alla questione che in questo momento si tenta di risolvere con la Libia, per cercare di fermare i trafficanti di uomini, con questa misura dell'utilizzo delle navi militari. Il titolo però è molto polemico: Ale, diamo soldi a tutti, la Libia ci osteggia, perché come vi ho detto leggendo il titolo del Fatto Quotidiano, ci sono delle proteste ufficiali da parte di uno dei due governi della Libia, perché purtroppo sapete che uno dei problemi delle relazioni diplomatiche con la Libia è che di fatto non si sa bene chi comanda. Comunque la Libia ci osteggia, noi le sganciamo milioni, 1,5 miliardi di euro al meridione che finirà alla criminalità organizzata. Altro che allarme siccità, una pioggia di denaro assorbita dai migranti portati qui dai bonisti europei. Il titolo, la fotonotizia però è Sergio Marchionne. Ieri sono stati pubblicati i conti semestrali della Fiat, che sono ottimi, e da qui lo spunto per tornare sulla questione Marchionne. Avevamo un cervellone, l'abbiamo fatto scappare all'estero. Il capo della Fiat fuggì dalle tasse, dall'asse Confindustria CGL, che non voleva far crescere l'Italia. E secondo Renato Farina, che ripercorre un po' la storia soprattutto professionale di Sergio Marchionne, che in questo momento è il numero uno di FCA, cioè la società che è risultata dalla fusione tra Fiat e Chrysler, Marchionne crea lavoro, per questo i sindacati lo detestano. La prima pagina della Verità invece si torna sulla vicenda della RAI. Ieri abbiamo visto l'intervista di Massimo Giletti a Paolo Conti sul Corriere, dove spiegava le sue ragioni per aver lasciato la RAI. È ufficiale un contratto di 2 anni con la 7, dove andrà in onda un programma molto simile all'Arena, avrà credo anche lo stesso nome, cioè il programma che Giletti conduceva sulla RAI alla domenica. Secondo però la Verità, c'è una grande fuga dalla RAI che rischia un buco milionario. Dopo Giletti, ultimo di una lunga serie, potrebbe andarsene anche la Gabanelli. Il nuovo direttore generale Orfeo piange, l'anno prossimo 100 milioni in meno. Questa è una dichiarazione che ha fatto Mauro Orfeo negli ultimi giorni, cioè che per via delle entrate da canone, appunto, potrebbero mancare 100 milioni. Il giornale: la Libia ordina di bombardare le navi italiane, quindi un'interpretazione ancora più pessimista, diciamo, delle prime proteste dalla Libia, perché Haftar, che è appunto uno dei due leader libici, dice che colpirà chi si avvicina alla costa. L'Avvenire: reato umanitario, la questione è quella dell'ONG, però capite fin dal titolo che il punto di vista dell'Avvenire è comunque appunto di capire davvero se questa ONG favorisse l'immigrazione di fatto, ma siccome si sono difesi dicendo lo facciamo ma senza lucro e per altruismo, è veramente una zona grigia in cui è molto difficile, secondo me, prendere una posizione, perché, ripeto, comunque i migranti in pericolo su queste carrette che poi venivano restituite secondo le accuse ai trafficanti di uomini, però intanto i migranti venivano in effetti salvati. Molto interessante l'intervista a Pietro Parolin, che è segretario di Stato Vaticano, che invece torna sulla questione del Medio Oriente, altra guerra, altra teatro di guerra aperto. Dal Medio Oriente al Venezuela, Parolin parla dell'impegno del Vaticano per la pace e sul Medio Oriente in particolare dice: Gerusalemme diventi una città aperta, mentre sappiamo che si sta, anche per via degli atti di terrorismo a Gerusalemme, si sta chiudendo sempre di più con i metal detector per andare sulla spianata delle moschee e al muro del pianto e tutte le proteste che ne sono seguite. Uno sguardo veloce ai giornali stranieri: la prima pagina della Frankfurter Allgemeine Zeitung è dedicata alla Russia e a queste sanzioni imposte dagli Stati Uniti, con Medvedev, il primo ministro della Russia, che dice Handelskrieg, cioè è una guerra commerciale in realtà quella che è in atto. Molto interessante, perché i giornali tedeschi sono, anche noi, anche quelli italiani ne parlano oggi, ma ovviamente quelli tedeschi sono giustamente ancora più avanti su questa questione, che è quella del Dieselgate, o comunque delle case automobilistiche accusate, oltre che di truccare i dati sulle emissioni delle macchine diesel, anche di aver fatto cartello su alcune altre cose. E adesso c'è un altro articolo della FAZ oggi, che dice che secondo alcuni esperti questo aggiornamento del software che viene chiesto per sempre controllare meglio le emissioni diesel in realtà non fa nessuna differenza, non rende le macchine diesel meno nocive per l'ambiente. Ci fermiamo però per una breve pausa e poi guardiamo velocemente le altre prime pagine straniere che ho selezionato oggi. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali stranieri, abbiamo visto quella della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Invece Le Figaro parla della legge sul lavoro in Francia. La Francia, forse come l'Italia, adesso noi in Italia abbiamo il Jobs Act, ma in ogni caso abbiamo ancora bisogno di riforme del mercato del lavoro, vale anche per la Francia. E Le Figaro titola semaforo verde del Parlamento alla quella che noi chiameremmo legislazione di urgenza sulla riforma del mercato del lavoro. Quindi il governo di Macron potrà appunto legiferare d'urgenza su questa questione. Il Washington Post, ieri abbiamo visto il New York Times, oggi il Washington Post, sono i due maggiori quotidiani nazionali americani. Poi negli Stati Uniti ci sono tanti, insieme forse a USA Today, prima che qualche ascoltatore super attento mi corregga, al 349-238-6666 potete mandare ovviamente gli sms e i WhatsApp, ne sono arrivati già tanti e vi ringrazio tutti, anche per quelli non esattamente lusinghieri, ma va bene così, come dico sempre. The Washington Post, il titolo è un'analisi su questo ennesimo record che ha battuto ieri il Dow Jones, il principale indice della borsa americana, che ha superato la quota 22.000, poi è sceso subito sotto, però intanto questa quota, che misura l'andamento degli scambi e i rialzi in una sola giornata all'interno della seduta borsistica di New York, intanto era salito sopra quota 22.000. Il Guardian invece sceglie di ancora ha molti titoli sulla prima pagina, molti dei quali riguardano le mosse di Trump. Tra l'altro viene ancora messa in primo piano l'intervista a Donald Trump che avevamo citato anche ieri, ma c'è un focus anche sulla Cina e in particolare sul problema, che resta un problema, di le informazioni che abbiamo o non abbiamo su come la Cina tratta i suoi dissidenti, soprattutto quando sono in carcere, perché sembrano sparire e poi magari ricomparire, però c'è un problema di democrazia che in Cina, che si vede anche appunto da questi atteggiamenti nei confronti dei dissidenti, di coloro che sono voci critiche del governo cinese. El País invece, il quotidiano, principale quotidiano spagnolo, sceglie di titolare sul Venezuela e in particolare sul fatto che l'Unione Europea non ha riconosciuto, insieme anche, non è l'unica l'Unione Europea, però intanto c'è stata questa presa di posizione, non ha riconosciuto la cosiddetta Assemblea Costituente di Maduro, questo nuovo organo che si è costituito dopo il voto di domenica. Avete sentito che ci sono dubbi sia sui dati della partecipazione sia proprio su come sono state elette le schede, cioè ci sarebbero dei veri e propri brogli, ci sarebbero stati. Andiamo alle pagine interne dei giornali e torniamo un attimo sul Sole 24 Ore, perché ieri è stato finalmente approvato il decreto sulla concorrenza. Dico finalmente perché c'è una legge che prevederebbe che queste leggi sulla concorrenza venissero fatte ogni anno. Questo in particolare era in attesa di approvazione da 900 giorni, quindi quasi 3 anni. Ok alla legge con 4 letture parlamentari. Il ministro dello sviluppo economico Calenda è contento di questa approvazione e ha detto adesso però basta con questi omnibus, cioè delle leggi in cui ci sta tutto, faremo dei decreti di settore. Comunque i settori interessati da questa misura sono le assicurazioni, le poste, l'energia, le banche, le professioni, le farmacie, i trasporti, il turismo e i fondi pensione. Trovate tutto a pagina 2 del Sole 24 Ore. Abbiamo parlato della decisione di Trump di imporre dei dazi economici alla Russia, ma lo stesso starebbe per fare con la Cina. Pronti dazi americani alla Cina, ce lo racconta Marco Valsani a pagina 6 del Sole 24 Ore. Sempre dal Sole 24 Ore, la prima pagina di Imprese e Territori, una buona notizia, i concordati sono in frenata nel 2017. Il concordato è naturalmente l'indicatore di una grave crisi di un'azienda e i dati però di Infocamere, raccolti da Infocamere e che Carlo Andrea Finotto ci illustra sulla prima pagina di Imprese e Territori, che è la 11 del Sole 24 Ore di oggi. A livello regionale il maggior numero di casi si registra in Lombardia, Toscana e Lazio. Ci sono 362 nuove procedure nei primi 6 mesi dell'anno, che sono sicuramente tantissime, ma è un calo rispetto ai primi 6 mesi del 2016 del 26,7%. Vi dicevo, l'agenda del professionista, puntata numero 4, dedicata al lavoro, la trovate a pagina 16 e anche qui i settori analizzati dai colleghi di Norme e Tributi sono più di uno. In questo caso cosa succede per le imprese? Obbligatorio pagare almeno 4 ore, per l'agricoltura sono esclusi i disoccupati dell'anno precedente, per le famiglie, per le attività di casa non c'è bisogno di notifica preventiva. Dal Corriere della Sera, forse il giornale che dà uno spazio maggiore anche per quanto riguarda le foto, alla vicenda che ha visto ieri per l'ennesima volta un battibecco tra il presidente della Camera, se mi ascolta sicuramente si arrabbierà, Laura Boldrini, perché lei sta facendo questa battaglia sull'uso degli articoli femminili per le cariche, e io continuo a chiamarla il presidente della Camera, e il Movimento 5 Stelle, nel senso che lei ha chiesto ad Alessandro Di Battista, il deputato del Movimento 5 Stelle, a un certo punto di fermarsi, e lui non l'ha fatto ed è stato espulso. E poi ha naturalmente, lei piace molto poi fare dichiarazioni, commentare il suo operato, e quindi poi ha dovuto spiegare che questa espulsione è stata dovuta a toni inaccettabili. Ci sono queste 3 fotografie che vi dicevo, che purtroppo secondo me sono comunque, naturalmente il Movimento 5 Stelle, che poi è in Parlamento da pochissimi anni, è stato il meno protagonista di episodi di questo genere nella nostra storia repubblicana, però queste foto che ci ricordano di alcune risse il 29 gennaio 2014, il 20 maggio 2015 e il 30 marzo 2017, quando i presidenti o della Camera o del Senato espellono degli onorevoli perché non si riesce a calmare la bagarre, e quando appunto in Parlamento anziché discutere civilmente si scatenano le bagarre, non credo sia mai un bello spettacolo. Sempre dalle pagine interne del Corriere della Sera, ne abbiamo parlato ieri, il 4 novembre in Sicilia si vota e sarà un test elettorale scusatemi, il 5 novembre, non il 4 novembre, si vota le elezioni regionali. Sarà un test che precede le elezioni politiche che dovrebbero tenersi a fine legislatura, quindi nella primavera del 2018, e tutti sono molto attenti a quello che succederà. In questo momento il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato il proprio candidato alla presidenza della regione. Forza Italia sta ancora valutando e lo stesso vale per il PD, anche se Renzi pare, secondo questi retroscena, stia chiedendo un passo indietro a Rosario Crocetta, cioè l'attuale governatore, di non, a parte che l'ha detto anche lui in un'occasione, ma poi spesso ci si rimangia queste dichiarazioni, però Renzi appunto vorrebbe che non si ricandidasse. Vedremo quali saranno i candidati. Molto interessante questa scoperta scientifica, e che con un commento di Giuseppe Remuzzi, che è un medico ma è anche un eccellente divulgatore, la scoperta scientifica è che è più di una scoperta, perché in realtà alla teoria è già seguita la pratica, cioè è stato modificato il DNA di un embrione. È una sorta di tecnica taglia e incolla che riscrive il genoma, cioè il codice genetico, cosiddetto genotipo, che poi dà luogo al fenotipo, che è tutto quello che si vede, tutto quello che diventa reale nel corpo umano, malattie comprese. L'esperimento è stato pubblicato sulla rivista Nature e naturalmente apre non soltanto delle possibilità mediche incredibili, perché se tutte le malattie genetiche sono così, sono chiamate così proprio perché sono direttamente riconducibili non a un fattore esterno ma a un fattore interno che ci portiamo dentro. Se si riuscisse a cambiarlo, forse si potrebbe curare anche la malattia. Il problema però è dove fermarsi, e il limite della scienza ce lo ricorda Giuseppe Remuzzi, la forza dei diritti dei malati e gli inevitabili dubbi etici, pagina 18 del Corriere della Sera. Un altro paese che sta andando al voto è il Kenya, e ce lo racconta solo La Repubblica, pagina 14, il Kenya al voto tra urne high-tech e omicidi mirati, perché anche in Kenya, come è successo per il voto, molto diverso peraltro, del Venezuela domenica scorsa, la campagna elettorale è molto violenta. E poi, visto che parliamo sempre di come purtroppo i nostri oceani siano diventati delle discariche, soprattutto per via della plastica, che ha bisogno di secoli se non millenni per essere riassorbita dagli oceani, c'è una discarica, ci scrive Massimo Calandri a pagina 21 della Repubblica, anche nei cieli. C'è una discarica sopra di noi in missione per pulire lo spazio. Ci sono troppi rottami e la situazione comincia a diventare rischiosa. Per esempio, è urgente rimuovere satelliti che sono grandi come autobus, e l'Agenzia Spaziale Europea sceglierà tra una l'Agenzia Spaziale Americana sceglierà tra una tecnologia italiana e una tedesca per avviare queste operazioni di pulizia spaziale. Vi segnalo invece, vi avevo detto, la Stampa l'ha messo in prima pagina come fotonotizia, poi trovate tutto a pagina 15, un bellissimo reportage secondo me da Ruanda, perché ricordiamolo, dal 6 aprile del 6 aprile a circa metà luglio del 1994, quindi sono passati esattamente 23 anni, il Ruanda fu teatro forse dell'omicidio più veloce che si possa ricordare, perché in questo lasso di tempo, quindi aprile, tre mesi praticamente neanche, furono uccise, tra l'altro sì, furono usate anche le armi da fuoco, ma soprattutto furono usati macete e bastoni, furono uccise in questa guerra tra Tutsi e Hutu, le due principali etnie del Ruanda, furono uccise 800.000 persone. Il Ruanda si sta, da una tragedia così non ci si può certo riprendere in un paio d'anni, ne sono passati per l'appunto 23, e ora domani si tengono le presidenziali nel paese con, attenzione, il più alto numero di deputati al mondo. E tutto sommato si tratta appunto dei superstiti del genocidio del 1994 che adesso sognano più potere e parità. Dalle pagine del Messaggero, una questione che è stata toccata un paio di settimane fa, credo, da alcuni giornali, quando si parlava degli italiani che vanno in pensione e poi si trasferiscono all'estero, dove poi gli viene accreditata la pensione con spesso dei regimi fiscali diversi, e questa è una scelta dettata anche dal fatto che in alcuni paesi, per esempio veniva citato il Portogallo, la vita è meno cara che in Italia. Ma il Messaggero ci racconta che ora l'INPS ha lanciato un allarme: troppe pensioni all'estero. Tito Boeri, presidente dell'INPS: eccessivi trattamenti assistenziali erogati al di fuori dei confini nazionali, così facciamo risparmiare gli altri stati. Ci fermiamo però un attimo per la seconda pausa sul traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta In Primo Piano. Buongiorno, ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 e in particolare a chi mi chiede dai miei social network. Io sono su Twitter, Giulia trattino basso Crivelli, e su Facebook, dove sono Giulia Crivelli. Basta, perché di più non riuscirei a controllarli, già questi faccio fatica a tenerli aggiornati, e credo che, insomma, essere dappertutto ma senza poi seguirli bene non abbia molto senso. Torniamo sul Messaggero, perché è davvero, io vabbè, purtroppo tantissimi ascoltatori del Movimento 5 Stelle o simpatizzanti del Movimento 5 Stelle criticano, so che non lo fanno solo con me, sempre il modo in cui parliamo del Movimento 5 Stelle. A Roma c'è un sindaco del Movimento 5 Stelle, a Roma ci sono i problemi, non capisco come si potrebbe evitare soprattutto di parlarne, perché spesso le critiche arrivano per il semplice fatto di citare la cronaca. Vi segnalo però che sulla questione ATAC, che naturalmente non è solo responsabilità del sindaco Raggi, il disastro dell'azienda del trasporto pubblico locale romano è stato ereditato dal sindaco Raggi, da tutte le giunte precedenti, di ogni colore. Però si scopre, per esempio, per parlare appunto di dati concreti, che l'ATAC non incassa le multe, e poiché sappiamo che c'è un'evasione tariffaria gigantesca a Roma, diventa ancora più grave. Chiusi nei cassetti della municipalizzata verbali mai recapitati, dai quali sarebbero arrivati 800.000 euro. Vi dicevo, l'intervista al segretario di Stato Parolini la trovate a pagina 4 dell'Avvenire, e parla molto anche di Gerusalemme e del Medio Oriente. Si dice preoccupato, come abbiamo visto, vorrebbe che la città fosse riconosciuta città aperta, ma per tutte e tre le religioni, per tutti i credenti. E poi dice anche una cosa che forse è vera: la soluzione c'è, ma in realtà nessuno la vuole. Poi, come sapete, l'Avvenire conduce da tantissimo tempo una battaglia contro il gioco d'azzardo, che sappiamo è anche una grande fonte di entrate per lo Stato, e la novità che ci racconta oggi l'Avvenire a pagina 11, carta bianca sulle distanze delle sale, più vicino l'accordo tra governo ed enti locali, rimane da sciogliere il nodo delle fasce orarie. Quindi vedete proprio come, secondo me, questo è un lavoro esemplare per un quotidiano, cioè c'è una vicenda che è lontana dalla soluzione, perché le misure sono ancora in discussione, e l'Avvenire aggiorna su dove ci si trova in quel momento su questa questione. Non se la dimentica e non ne parla solo quando c'è un fatto di cronaca eclatante. Veniamo alle pagine interne invece di Libero, dove viene raccontata questa storia. Anche io avevo visto qualcosa ieri su internet, veramente un po' da mani sul volante. La bella vita dei Rom, reddito zero ma 1600 auto. È un'operazione, è una scoperta che ha fatto i carabinieri della provincia di Bergamo, che poi hanno fatto anche una maxi operazione. Si è scoperta questa famiglia di Rom, un gruppo di 74 persone che in 30 anni ha accumulato 50 milioni di euro. Per il fisco erano di fatto dei nullatenenti, e poi, per esempio, appunto in 30 anni hanno immatricolato 1600 auto. Ieri un ascoltatore ci ricordava che chiunque viva a Bologna o comunque sia stato coinvolto direttamente dalla strage di Bologna del 2 agosto del 1980, dove morirono 85 morti e restarono ferite alcuni in modo gravissimo, 200 persone. C'è stato, come sempre, il 2 di agosto una commemorazione in comune, ma ci sono state anche qui, purtroppo, come sempre, le proteste dell'Associazione dei Familiari, che ancora una volta denunciano come non si riesca a fare veramente luce sugli autori di quella strage, sui responsabili. Ieri abbiamo segnalato, lo segnalava Le Figaro, ma lo segnalava anche l'Avvenire, che ieri era il cosiddetto overshoot day, cioè il giorno in cui passiamo dall'aver consumato le risorse disponibili per quell'anno del nostro pianeta, cominciamo a consumare come delle riserve, come un'azienda che non avendo più utili intacca le riserve straordinarie, che naturalmente è una ricetta per un disastro a medio termine. Ripeto, ne hanno parlato pochissimi giornali. Oggi torna il manifesto su questa questione e l'interpretazione del manifesto è: per il nostro modello di sviluppo, visto che siamo ad agosto, quindi abbiamo superato la metà dell'anno, ma non di molto, ci vorrebbero due pianeti. Il Fatto Quotidiano racconta questo, Roberto Rotunno sul Fatto Quotidiano, pagina 9, racconta questa novità legata, parlavamo prima di social network, questa novità legata alle rivoluzioni dei social network e di tutto quello che corre su internet, per esempio WhatsApp, il servizio di messaggistica. Roberto Rotunno ci racconta questa storia che viene da Livorno, di persone cacciate con WhatsApp, i licenziati nell'era dei social. Non credo che sia un grande progresso, una grande innovazione tecnologica. Molto interessante un racconto che fa il Foglio a pagina 15 di un fatto che è successo in Francia, cioè la chiusura del centro che era nato per ospitare gli aspiranti jihadisti. È stato chiuso questo centro, che viene definito di riabilitazione del jihadista riluttante, e il ministro dell'interno Gérard Colomb ha detto, senza mezzi termini, è stato un esperimento inconcludente. Soldi buttati, 2,4 milioni di euro bruciati, non basta rinchiudere le persone per 3 mesi per cercare di fargli più che un lavaggio del cervello, forse di spiegargli, di fargli vedere con più obiettività la realtà, o di diminuire la loro rabbia o le loro intenzioni jihadiste, non bastano evidentemente per cambiare l'atteggiamento di questi giovani, e quindi il centro è stato chiuso. A pagina 19 del Corriere, ma lo trovate anche su altri giornali, il bilancio della maturità, un primo bilancio della maturità di quest'anno, il boom dei 100 elode. In testa per questi 100 elode c'è la Puglia, seguono Campania e Sicilia, i voti alti però crescono anche al nord. E poi nelle pagine della cultura un bellissimo articolo di Livia Capponi sull'imperatore Adriano. Naturalmente forse Adriano è stato celebrato nel modo migliore dal romanzo Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, che fu pubblicato nel 1951 e che raccontava, certo era un romanzo, però ha fatto conoscere a moltissimi la storia di questo incredibile imperatore, che perché il Corriere della Sera ne parla, perché si insediò l'11 agosto del 117, quindi parecchi secoli fa. Però cogliendo lo spunto da questo anniversario, ci sono convegni e mostre che lo ripercorrono in tutto il mondo. Viene definito l'imperatore curioso. Fu un valente generale, ma anche letterato, filosofo, costruttore e instancabile viaggiatore. E sicuramente all'epoca viaggiare era cosa assai più impegnativa di oggi. Molto molto bello, molto curioso, un articolo proprio da leggere in estate quando si ha un po' più tempo, quello di Angelo Acquaro sulla Repubblica, un reportage dalla clinica dove curano i guerrieri cinesi di terracotta. Sapete, sono quelle statuette antiche che raccontano appunto la storia della Cina meglio di tantissimi, forse di tantissimi altri, di tanti libri anche, perché poi sono spettacolari da vedere una vicino all'altra, ma ovviamente essendo in terracotta ed avendo molti secoli, alcuni in realtà datano queste statuette a oltre 2000 anni fa, hanno bisogno di cure, e ci sono naturalmente degli artigiani, tra l'altro dalle foto sembrano tutti molto giovani, che si occupano appunto del restauro di questo patrimonio archeologico. vi segnalo ancora una volta, ma perché ho un interesse così anche personale, io sono da piccola ero innamorata di Corto Maltese, il personaggio creato da Ugo Pratt. A partire da domani il Corriere della Repubblica pubblicherà una storia inedita che si chiama Equatoria di Corto Maltese, che è un fumetto, anche se forse addirittura fumetto è un po' riduttivo. Le tavole e i testi sono di Ugo Pratt, le tavole sono tutte ad acquarello e sono già bellissime loro, ma poi c'è questo personaggio che appunto è diventato leggendario, è l'emblema un po' dell'avventuriero. L'ultimissima segnalazione, no, forse ho ancora tempo per un paio di segnalazioni, sempre dalla stampa: l'effetto caldo sugli animali, sempre meno latte e miele. Dal nord al sud le alte temperature riducono la produzione e quindi l'aumento dei prezzi a questo punto è sicuro, ma non ancora quantificabile. Il molto bello dalla stampa, il diario di bordo di Paolo Nespoli, il nostro forse astronauta più famoso, che trascorrerà 5 mesi in orbita, vi racconto il piacere di galleggiare nella stazione spaziale, con naturalmente tutte le bizzarrie che implica questo, cioè sappiamo le varie difficoltà anche soltanto per mangiare, per soprattutto l'assenza di gravità. Quello che Paolo Nespoli e i suoi compagni di avventura saranno impegnati a fare sono esperimenti biomedici, e alcuni di questi sono stati selezionati, richiesti proprio dall'Agenzia Spaziale Italiana. Pagine di Libero, anche qui una passione un po' personale, quella per le stilografiche, per la scrittura a mano, la storia di Gianfranco Aquila della Monte Grappa, l'azienda che produce penne stilografiche, e spiega che le stilografiche non sono più oggetti di lusso, ma a questo punto possono essere anche affascinanti pezzi d'arte. Temo che il mio tempo sia finito. Sì, mi segnala Peter Escapè in regia, che ringrazio anche tutti voi, e vi do appuntamento a domani.